Europa 24. Buongiorno, noi ripartiamo invece da Lampedusa dopo le immagini, lo scoop di fatto del TG2 da Lampedusa e le immagini che hanno fatto il giro del mondo sul trattamento sanitario inflitto appunto agli immigrati. Sentiamo subito Michele Cercone, portavoce della commissaria europea Cecilia Malmström. Da un lato abbiamo una legislazione che va applicata e rispettata e quindi la procedura di infrazione è uno degli strumenti per fare in modo che le regole vengano applicate correttamente, quindi non escludiamo il ricorso a una procedura di infrazione, allo stesso tempo però l'obiettivo principale è risolvere e migliorare le condizioni nei centri, quindi utilizzeremo gli strumenti più adeguati che siano quelli della cooperazione o che in caso di necessità siano quelli poi delle procedure di infrazione. Dall'altro lato invece noi abbiamo l'impegno di sostenere l'Italia così come deciso dopo la tragedia di Lampedusa, abbiamo messo a disposizione misure molto concrete che includono anche lo sblocco di fondi di emergenza fino a 30 milioni di euro. Questi fondi devono servire chiaramente, ed è questo il monito che viene lanciato oggi alle autorità italiane, a migliorare la situazione dei centri e devono tradursi in azioni concrete in questa direzione. Consiglio europeo domani a Bruxelles, il tema fondamentale è quella della risoluzione bancaria, insomma il secondo pilastro per il sistema unico della gestione delle banche in Europa, ma ci sarà anche spazio per parlare di politica di sicurezza e difesa comune. Le indiscrezioni e le bozze prevertice lo danno come uno degli argomenti di facile accordo. Al Consiglio europeo di domani e venerdì a Bruxelles si parlerà anche di politica di sicurezza e difesa comune, intesa come strumento di sviluppo economico, soprattutto per le implicazioni industriali, anche nel settore della ricerca cosiddetta dual use, tecnologie utili tanto a scopo militare quanto civile. Per l'europarlamentare tedesco Michael Gahler, serve al più presto una nuova ambiziosa agenda europea. I'm convinced that we need in this sector, as in other sectors, economies of scale. In questo settore come in altri, dice ai microfoni di Euronet Plus, servono economie di scala per riuscire a competere sul mercato globale. Se non riusciremo a far fronte ai grandi competitor mondiali, aggiunge Gahler, saremmo mangiati da altri. Oppure certe industrie abbandoneranno la produzione difesa e sicurezza per concentrarsi solo su quella civile. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Presentato oggi a Bruxelles il pacchetto sull'aria, un tema ovviamente sensibile. 400.000 persone, secondo una stima dell'Unione Europea, nel 2010 sono morte prematuramente proprio a causa dell'inquinamento. Abbiamo sentito Marco Gasparinetti della Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea. Innanzitutto le abbiamo chiesto perché si parla di pacchetto. Perché c'è una comunicazione che accompagna le due proposte legislative e riassume la posta in gioco in termini di tutela della salute, competitività dell'industria europea e tutela dell'ambiente. E le due proposte che vengono sottoposte al Parlamento europeo e al Consiglio di produzione, la prima riguarda gli impianti di combustione, quelli attualmente non disciplinati dalla direttiva grandi impianti, e la seconda direttiva invece è sui tetti nazionali di emissione, ovvero sia i limiti di emissione che gli Stati membri si impegnano a rispettare per quanto riguarda una lista di sostanze inquinanti che sono prioritarie. Secondo i vostri dati si parla addirittura di 400.000 morti premature, quindi non cause di morte dirette, ma persone che di fatto muoiono prima di quanto non potrebbero in una condizione di aria più pulita. Assolutamente sì, questi sono dati che in parte erano già noti nel 2005 quando l'Unione Europea per la prima volta ha affrontato uno studio di questa ampiezza, ma nel frattempo le prove sul piano scientifico si sono accumulate e sono ancora più chiare, direi incontrovertibili. A questo punto sul piano degli studi e delle ricerche effettuate si è mossa l'Organizzazione Mondiale della Salute, si sono mosse le agenzie specializzate per la ricerca sui tumori e il costo dell'inquinamento dell'aria è un costo che si ripercuote fra l'altro anche sulla competitività del nostro sistema economico, perché se consideriamo anche soltanto le giornate lavorative perse sono 15 miliardi di euro ogni anno di danno diretto e l'impatto sulla salute complessivamente, considerando i costi per il sistema sanitario, se consideriamo l'insieme di questi costi arriviamo ad un range non inferiore ai 330 miliardi di euro all'anno, stima conservativa. Con questo è tutto, Europa 24 torna domani alle 14. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.